mercoledì 19 gennaio 2005, sono le 9.02. La trasmissione di oggi è solo per annunciare la disponibilità sul blog pendodeliri.splinder.com di un video, di un piccolo documentario in realtà, sulla Via Pontina, che rappresenta dal punto di vista della produzione multimediale un po' il padre, la madre di tutte le ossessioni del pendolare pontino, in quanto si intitola SS148 Conversazioni sul Pecerume, un video quindi antecedente all'apertura del blog Pendo Deliri e che fu realizzato oltre che dal sottoscritto ad altri due blogger celebri, il Torchio, che ricorderete per un po' fu la voce delle assurdità aziendali in tutte le forme più devastanti, e Doppia Fila, che esiste ancora come blog anche se viene aggiornato abbastanza raramente, e che è il blog del più celebre dei transfughi italo-argentini, quindi un blog a cavallo dei due continenti, e che però appunto in quell'epoca anche lui viveva in quella zona di Roma, in quella zona dell'Interland a sud della capitale, e quindi aveva una conoscenza abbastanza approfondita della Pontina da poter contribuire a un documentario. È una parola decisamente grossa, perché le immagini non documentano granché. In realtà questo filmato è parte di un progetto più ampio, che era appunto il progetto della Community Content Creators, che aveva per obiettivo quello di raccontare la realtà delle nostre vite con uno sguardo obliquo, diciamo, uno sguardo décalé, direbbero i francesi, proprio per cercare di uscire dal circolo delle ovvietà che spesso caratterizzano un po' le produzioni multimediali che vengono pubblicate in rete. La community che visse anche una sua epoca d'oro con parecchi partecipanti e che poi morì perché il fenomeno dei blog travolse tutti e alla fine si decise di creare un web ring di blog tra appunto il sottoscritto, il Torchio e Doppia Fila, che poi chiaramente si è allargato fino alle dimensioni che conosciamo. È un video che normalmente non inviterei a scaricare, il punto è che chi è abbastanza folle da ascoltare questi pendoliri potrebbe anche esserlo a sufficienza da scaricarsi il video e magari farmi sapere le proprie impressioni.